l'estremo gesto, la grande provocazione, il coraggio laico, ho detto laico perché l'ho letto, no? Cosa assurda, perché la laicità non è certo l'encomio del suicidio. Ecco, io ho contestato proprio la rottura del silenzio che deve sempre accompagnare il rispetto della morte. Però lei ha aggiunto... Invece del silenzio si è usata quasi la morte di Monicelli per elogiare il suicidio. Sì, lei ha detto anche su questa terra nessuno ha diritto assoluto sulla propria vita, lo ribadisce insomma, perché invece... Lo ribadisco ed è una convinzione non solo religiosa, perché vorrei ricordarle che il suicidio è un reato, tant'è che c'è il reato di istigazione al suicidio. Beh, Quindi, il suicidio forse non è più reato. E non solo in termini religiosi, nessuno ha il diritto di togliersi la vita. Ma quindi quando il Presidente della Repubblica dice un'estrema volontà da rispettare, lei che pensa? La rispetta? Il Presidente Napolitano, che è un Presidente che notoriamente io non solo stimo molto, ma a cui voglio molto bene, ha fatto, penso, l'intervento più forte della sua presidenza. L'intervento più forte, secondo lei anche un intervento che non doveva fare? Ma io non mi permetto, le ripeto, è il Presidente della Repubblica, sicuramente è l'intervento più forte della sua presidenza. Le chiedo, veniamo alla questione politica. Secondo lei, cittadini italiani, come giudicano, al di là delle motivazioni per cui si è arrivato, come giudicano il fatto che alla Camera si starà a casa una settimana in attesa del D-Day cosiddetto, no? Il 13-14 dicembre la fiducia? Cioè, sinceramente, si metta nei panni di un cittadino italiano che dice la Camera chiude perché meglio non parlare di nient'altro in attesa della cosa più importante. Ma sa, il cittadino italiano è un cittadino, si ricorda Longanesi, no? Che gli eletti, i deputati, sono per il 10% migliori di chi li ha eletti, per il 10% sono peggiori, per l'80% sono uguali. Quindi la mia impressione è che il cittadino italiano si dividerà come la classe politica, tra quelli che sperano che il 14 ci si libera di Berlusconi e quelli che al contrario sperano che continuiamo a governare. Quindi trovo che non contesteranno il fatto che in attesa di un avvenimento così importante i lavori della Camera ne vengano condizionati. Senta, e per quel che riguarda invece il 14, ma c'è davvero questo pallottoliere alla Camera, soprattutto alla Camera, dove si sta a vedere dove stanno uno o due parlamentari magari non celebri che potranno determinare il voto? Ma intanto i parlamentari sono tutti uguali e quindi i voti sono tutti uguali, mai come in questo caso si contano, non si pesano. La celebrità non è un valore, anche perché a buttare il paese nella tragedia è stato proprio una celebrità della politica. Quindi cioè? Viva il parlamentare semplice. Cioè chi? Beh, certamente il presidente Fini ha fatto una scelta che anche in questo caso ha tutto il mio rispetto, però la conseguenza è che il paese è stato precipitato in una crisi politica che, intrecciandosi con quella economica internazionale, dalla misura di come certe volte la classe politica si chiude occhi e orecchie. Senta, ma con una fiducia risicata, che ne so, 4, 5, 6, 7, 10 voti, secondo lei il governo ha la forza per governare? Perché pare che l'ultima di Berlusconi sia o fiducia forte o si va al voto. Ma ragionevolmente, quando alcuni parlamentari che sono stati eletti sotto un simbolo su cui c'era scritto Berlusconi presidente, cominciano la legislatura con Berlusconi presidente e a metà dicono Berlusconi a casa, la conseguenza più probabile è che Berlusconi vada a casa, ma quella ancora più probabile è che si vada alle elezioni. Quindi sì, secondo lei lì si andrà? Ma veda, io non così come stato... previsione, come previsione politica, non... Ma la mia previsione non è né un auspicio, né diciamo, una informazione, una notizia. Si andrà alle elezioni perché fortunatamente noi non siamo come la sinistra, perché quando una operazione analoga fatta anche allora da un presidente della Camera, istituzione circondata nella Seconda Repubblica da straordinario sospetto, perché mentre nella prima noi ricordiamo i grandi presidenti, no? Ingrao, Laiotti, per non dire al Senato di Fanfani, di Cossiga. Non è un grande presidente. Oggi accade che abbiamo presidenti altrettanto dotati politicamente, da Bertinotti a Fini, sì. Però purtroppo accade che continuano a fare politica e qualche volta, per ingannare il tempo, se la prendono col governo. No? Anche l'altra volta Bertinotti fece cadere Prodi. Se la sinistra andava al voto, i cittadini dicevano: Bertinotti si è stancato. Noi no, forse non si erano stancati, perché voglio dire che mentre l'ultimo Prodi è stato un governo zoppo, il primo Prodi aveva ottenuto dei risultati, no? Perché il paese sul piano economico entrava da protagonista, sì, sulla scena dell'euro. Non eravamo in una fase in cui la sinistra le perdeva le elezioni. Scelsero invece la quaterna, no? Prodi, D'Alema, Amato e infine Rutelli candidato premier. Il risultato è che da allora non toccano più palla. Insomma, di fatto, ecco, lei noi dice, questo errore non lo faremo. Questo errore non lo farete. Se cadiamo si va al voto. La ringrazio, ministro, per essere stato con noi. Il ministro Gianfranco Rotondi. Buon lavoro. A lei. Ministro per l'attuazione al programma, avete detto se cadiamo si va al voto, molto esplicito. Noi nel sondaggio tra poco parliamo di Julian Assange, l'uomo WikiLeaks che secondo qualcuno andrebbe ucciso brutalmente come un politico canadese, ma anche secondo Sarah Palin è come Al-Qaeda o peggio di Al-Qaeda, per altri è un paladino della libertà. E per voi 800 24 00 24 per intervenire, votate il sondaggio su radio24.it tra poco. 24 mattino alle 8:34 minuti. Allora, il più diretto è stato Tom Flanagan, consigliere del premier canadese, ha detto Julian Assange andrebbe assassinato. Per un ex governatore americano andrebbe condannato a morte. Per Sarah Palin è peggio di Al-Qaeda. Per alcuni è un paladino della libertà e della democrazia. Il caso WikiLeaks ancora oggi nel nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Che ne pensate? Allora è davvero un criminale che sta mettendo a suo quadro mezzo mondo in relazioni diplomatiche, oppure è un paladino della libertà di informazione, della democrazia, del dovere di far sapere a tutti? WikiLeaks, intanto ne vogliamo parlare con il sottosegretario agli esteri, il senatore Alfredo Mantica. Buongiorno e ben ritrovato. No. Così come voglio salutare Mario Adinolfi, blogger famoso, direttore tra l'altro di un settimanale uscito da pochi giorni in edicola, The Week. Buongiorno Adinolfi. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. E ci ascolta, lo voglio salutare, ci aiuterà a capire qualcosa del diritto internazionale, Kuno Tarfusser, che è giudice italiano alla Corte Penale Internazionale all'Aia. Buongiorno Tarfusser. Buongiorno. Allora, intanto vorrei dal sottosegretario Mantica, che ne pensa lei? Proprio così, dia un giudizio magari poco diplomatico. È un criminale oppure è un paladino della libertà, questo Julian Assange? Mantica. Guardi, io comincerei a fare una premessa. Non è libertà, perché se tu pubblichi gli archivi di una parte sola, non ha senso. Se è una battaglia di libertà e trasparenza, il giorno in cui ci fa vedere anche i messaggi degli ambasciatori cinesi, di quelli russi, di quelli brasiliani, di quelli inglesi, di tutti, allora sì, è libertà. Altrimenti è un'operazione di spionaggio, poi si può giudicare se è fatta bene o male, ma se è giusto o sbagliata. Ma io toglierei questa patente di paladino della libertà e della trasparenza. Voglio dire, come un voyeur dal buco della serratura. Non credo che guardare dal buco della serratura del mondo sia un atto di libertà, un atto di voyeurismo, insomma. Sì. Ma senta, senza giudicare poi, sì. Io non sono, è chiaro che gli americani che sono colpiti poi ne traggono dei giudizi. È un uomo nuovo, di un mondo nuovo, e forse qualcuno dovrebbe riflettere, lo dico ridendo, alle 8:30 mattina sulla vecchia legge della mafia, pizzini e contanti. E cioè qua il mondo dei telefonini, di internet, dei bonifici bancari, è un mondo dove lasci tracce e nessuno può cancellare le sue tracce, quindi è un mondo diverso da quello in cui siamo stati abituati a vivere. E questa è una seconda osservazione, vale per i diplomatici americani, ma direi vale per tutti noi, questo ci dobbiamo rendere conto. Ma infatti lui ha detto da qualsiasi parte del mondo si trovi, lo danno a Cuba, a Londra, in Ecuador, che poi però l'Ecuador dice no, qua non lo vogliamo, dovunque si trovi, lui ha detto potranno fare qualunque cosa per blindare le comunicazioni, che troveremo sempre un modo per aggirare queste. Certo, questa è la realtà del problema, cioè non... No, ma infatti non... questo è il nuovo modo anche di comunicare e l'impossibilità di fermare tutto. Mario Adinolfi, lei tra l'altro ha fatto un commento su Europa, credo, a dire altro che Al-Qaeda, cioè è proprio veramente un paladino della libertà. Ma queste che le suscitano questi commenti? Sono un po' tra lo stizzito, un po' tra l'innervosito, il preoccupato dall'America che arrivano e qualcuno che dice facciamolo fuori, insomma, perché forse è meglio. Capisco che chi fa fare una gran brutta figura al Dipartimento degli Stati Uniti di Stato degli Stati Uniti abbia, come dire, il fastidio del Dipartimento di Stato, è una cosa normale. D'Assange è semplicemente il più grande giornalista dei nostri tempi. Quando ci fu lo scandalo Watergate usarono gli stessi argomenti, messa in crisi la sicurezza nazionale, ci fu una difficoltà enorme a pubblicare quei documenti, poi però vinsero il Pulitzer. Io dico, chi fa il nostro mestiere, io faccio il giornalista, fa semplicemente questo, cerca di far sapere ai cittadini quello che i cittadini non sanno, non possono sapere autonomamente, non possono sapere con i loro strumenti. Se io avessi un documento segreto, io su The Week ho pubblicato dei documenti, proprio nel primo numero, riguardanti Finmeccanica, delle carte, riguardanti Scaroni, il presidente dell'ENI. Sono tacciabile di attaccare la sicurezza nazionale, ho fatto il mio mestiere, credo di aver fatto il mio mestiere. L'ho fatto meno bene di Assange, io ho pubblicato 4 documenti, lui ne ha pubblicati 250.000, è stato bravissimo a reperire i documenti e Assange è semplicemente colui che dovrebbe vincere il prossimo premio Pulitzer, non è un eroe, non è il paladino della libertà. In un tempo in cui il giornalismo cambia radicalmente pelle, ci ha insegnato come si fa il giornalismo, cioè si va a caccia di documenti che possano spiegare delle cose, raccontare un pezzo di verità. Il potere racconta questo come guardare al buco della serratura. Quante volte l'abbiamo sentito dire, sì, in questi due anni? Ma questo senza limiti. Sta guardando dal buco della serratura. Ma questo senza limiti. Quando uno cerca delle cose che stanno dentro le stanze del potere, poiché le stanze del potere non ti spalancano le porte, ti resta il buco della serratura da cui guardare. Il problema se ci sono dei limiti, non so, sottosegretario Mantica, ci sono dei limiti a questo? È quello che dice Adinolfi? Voglio dire, se il principio del giornalismo è che mi guarda nel mio conto corrente e giudica come io mantengo mia moglie, perché questo si può fare, no, con internet, beh, voglio dire, questo è un altro mestiere, perché la conseguenza di questo è che, strano, ma sarà la conseguenza normale della diplomazia, aumenta il potere dei servizi segreti, cioè questa libertà incontrollata, pretesa, questo modo, come dire, di penetrare nella vita privata di ciascuno. Dico, tutti noi siamo nati con l'idea della valigia diplomatica e della riservatezza. Se riteniamo che nessuno può più tenere riservato niente, quando uno mi dice vado negli archivi di Finmeccanica e racconto la storia di Finmeccanica, domando, ma lei chi è per giudicare? Ma chi le ha dato il potere? Quello di essere capace di leggere, come dire, uno strumento informatico? Beh, voglio dire, sarà un potere nuovo, non credo che nessuno abbia il diritto di pensare che questo è il nuovo frontiera del giornalismo, perché ricorderò che nascerà una nuova frontiera di limitazione delle libertà. Sarà... Se nessuno è capace di gestire il potere dell'informazione e non ha il limite, voglio dire, nascerà un mondo nel quale ci saranno molti limiti. Non dimentichiamo mai che questo meccanismo nasce proprio dopo l'11 settembre, quando gli americani, oggi possiamo dire sbagliando, misero in relazione tutti i loro database per averne uno solo e fare in modo che tutti fossero informati di tutto. È ovvio e questo che... è chiaro che se viene bucato, questo è un problema. Restrittivo, infatti oggi credo di poter dire, e questo fatto lo conferma, ma era già prima, il problema del futuro è il rapporto tra libertà e sicurezza. Io vorrei per un attimo sentire che ne pensa il giudice italiano Cuno Tarfusser, precisando, e questo lo dobbiamo dire perché è uscito anche un'intervista sul Corriere, procuratore, la Corte Penale Internazionale dell'AIA nel caso non c'entra nulla con eventuali capi di imputazione contro Julian Assange, questo ce lo può confermare? No, assolutamente nulla. Noi qui alla Corte Penale giudichiamo reati completamente diversi, che sono i crimini di guerra, il genocidio e reati di questo tipo, reati contro la moneta, certo, contro l'umanità, quindi non certamente reati di questo nel tipo. Caso, però ci aiuti a capire, perché in questo momento Julian Assange ha due capi di imputazione per violenza sessuale, tra l'altro la vicenda è anche, per carità, l'imputazione è molto seria, ma oggi sui giornali c'è anche un risvolto comico, l'accusa sarebbe che ha avuto due rapporti consenzienti con due donne consenzienti, durante i rapporti si è rotto il preservativo e Julian Assange non si è fermato, diciamola così brutalmente, e quindi questa è diventata un'accusa di stupro. Detto questo, cosa vuol dire 188 paesi che lo cercano, e se lo trovano, dovunque lo trovano, che succede di lui? Ma guardi, certamente lo fermano e si chiederanno cosa facciamo, a chi lo diamo, perché il problema qui è se lui ha commesso un reato e casomai dove lo ha commesso. Quindi secondo me è fondamentale, al di là dei risvolti politici, dei risvolti giornalistici e di gossip vari, inquadrare correttamente la fattispecie. E qui perché un furto, se è un furto di mela o un furto di un milione di euro, sempre furto rimane, quindi non è che bisogna adesso cercare di trovare qualcosa di assolutamente mondiale, internazionale, transnazionale nei fatti. Quindi qui il fatto è relativamente semplice, bisogna vedere se questo signore, come è arrivato a questi dati, se è arrivato a questi dati attraverso l'attività di hackeraggio, se ci è arrivato attraverso furto del materiale cartaceo, cosa che è abbastanza impensabile, o se vi è arrivato attraverso corrompendo eventualmente dei funzionari infedeli, evidentemente, sì, che hanno concorso con lui. Quindi bisogna vedere dove questa attività è stata commessa, immagino, io ipotizzo, ma non lo so, negli Stati Uniti, oppure in Svezia, se si tratta, o anche se si trattasse di hackeraggio, e quindi questi paesi dove è stato commesso questo fatto, se in quei paesi questa attività costituisce reato, come io penso, non so, da noi per esempio si potrebbe ipotizzare l'accesso abusivo al sistema informativo, sì, al sistema informativo 615 ter del codice penale, oppure la corruzione o quant'altro, questi paesi hanno la titolarità investigativa su questi fatti. Perfetto. Utilizzeranno i soliti canali normali, rogatoriali di cooperazione nelle indagini di tutti gli altri paesi che possono offrire attività investigativa in coordinamento con, certo, con questi. Però al momento, ma da qui voglio ripartire dopo il traffico, pende questo capo di imputazione di violenza sessuale in Svezia, il che vuol dire, mi immagino, ma questa è la domanda che le farò tra un attimo, se viene arrestato dovunque nel mondo viene automaticamente portato in Svezia, ma tra un attimo ci riprendiamo da questa domanda. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Votando su Radio24.it, per ora il 61% di voi sceglie è un paladino della verità. Noi l'abbiamo messa così, brutale, no? Nel nostro bianco o nero. Un criminale questo Julian Assange o un paladino della verità? Per voi il 61% di voi è un paladino della verità. Dottor Tarfusser, mi risponda sinteticamente. Cioè, l'Interpol cerca 188 paesi per presunto stupro in Svezia, cioè lo prendono, che ne so, a Bangkok, va automaticamente in Svezia? No, in questo caso dipenderebbe dalle norme interne di cooperazione che si è dato Bangkok rispetto a una simile richiesta, quindi dipende dal paese in cui è stato estradato. Se viene estradato in ambito Unione Europea, cioè se viene arrestato in ambito Unione Europea, è più facile darlo, certo, alla Svezia, perché è un paese dell'Unione Europea. Questo dipende, ma credo di essere facile profeta se dico che nel momento in cui venisse preso gli pioveranno addosso diversi altri, un po' di accuse da altri paesi. È un po' più pesante. Sentiamo che ne pensa Mirko da Roma. Buongiorno Mirko. Buongiorno. Lei con chi sta? Lei con chi sta? Io sono con Julian Assange. Fa bene secondo lei? E perché? Perché il successo che sta avendo questo blog, questo fenomeno, è secondo me proprio un indicatore della mancanza, della completa assenza di giornalisti, di giornalismo d'assalto nella stampa tradizionale. Cioè quello che si vedeva negli anni 70, nel periodo di Nixon, insomma, quando comunque i segreti, le cose, le acque sporche venivano fuori, erano frutto di un lavoro giornalistico che oggi non si vede più. Non si vede più. Bisognerebbe dare, come dice il nostro Adinolfi, il premio Pulitzer. Gianni da Milano, buongiorno. Buongiorno. Che dice lei? Ma io sto contro, per un semplice motivo, che finalmente dopo tanto tempo non ho sentito il nome del vostro ospite che ha fatto l'intervento, perché ero con la vostra redazione, ma finalmente ho sentito parlare di come prende queste notizie, perché se sono le cosiddette fughe di notizie, allora lui sia un bravissimo giornalista, le pubblica tutto quanto. E lui fa questo, fa. Ma se invece se le procura, quindi facendo hackeraggio e tutto quanto. Non è così. Cioè, nel senso, l'accusa anche dell'americano, l'abbiamo raccontato anche ieri, pare che l'informatore sia un soldato americano, che infatti è in carcere, anche se Assange ovviamente lo difende, dice non mi ha dato niente lui. Questo soldato americano lavorava al Pentagono, entrava col CD, con la copertina di Lady Gaga, cancellava le musiche di Lady Gaga, ci metteva i file, usciva con la copertina di Lady Gaga canticchiando le canzoni di Lady Gaga, che ieri ho canticchiato e oggi non canticchio più. Cioè uno che trafugava notizie. Adinolfi, ma ha sentito Mantica dire attenzione a questo assalto, a questo voler pubblicare anche la posta, i conti correnti? Perché poi il mondo si tutela e dice ci sarà un mondo dove a tale forza corrisponderà una controforza di censura, non l'ha usata come parola, ma lo dico io, di protezione. Che ma facciamo? Non mi meraviglio se Mantica protegge il suo conto bancario e non mi meraviglio. Ma ci mancherebbe neanche, su questo, anche lei, Adinolfi, proteggerà il suo, certo, questo. Esattamente, non mi meraviglio neanche se adesso al Pentagono rafforzano i sistemi di sicurezza. Posso dire un'altra cosa? Assange in questo ha fatto solo del bene, perché quel sistema era vulnerabilissimo. Allora questo ha dimostrato Assange, e secondo me gli hacker in tutti i sistemi del mondo poi vengono utilizzati così. Quando un hacker entra e penetra un sistema complicato da penetrare, un minuto dopo riceve una richiesta d'assunzione dai sistemi di sicurezza, per migliorarlo. Secondo me Assange è un benefattore, ha dato al Pentagono i segnali della sua debolezza e ha creato le condizioni affinché la democrazia si adegui ai tempi. Siamo nel 21esimo secolo abbondante ormai. In questo secolo internet esiste, i CD e i masterizzatori esistono da 25 anni. Allora se il Pentagono, o comunque il potere, pensa di poter rispondere all'ansia di sapere dei cittadini, che c'è sempre da che mondo è mondo, dicendo semplicemente voglio controllare la libertà, non mi è piaciuta questa espressione di Mantica, la libertà controllata, non esiste la libertà controllata, la libertà è libertà. Poi c'è il conflitto, come sempre è stato, tra il giornalista che cerca la verità. Se io pubblico Finmeccanica non faccio un danno al paese, faccio il mestiere di giornalista, faccio sapere delle carte inedite. Se Assange ne pubblica 250.000, ha fatto benissimo il mestiere di giornalista e ha fatto anche del bene a un sistema sensibile come quello del Pentagono, che andrà probabilmente dovrà alzare i livelli, allora, di sicurezza e capire come funziona il 21esimo secolo. Io un minuto, voglio, sottosegretario Mantica, voglio darlo a lei e le chiedo anche una dichiarazione politica, insomma sui giornali oggi ci sono tutte le vicende sui rapporti Russia, le preoccupazioni del governo della Georgia, dei rapporti Berlusconi personali e Putin. Che crede davvero che questo non avrà ritorsioni diplomatiche, lei che è sottosegretario agli esteri, nei rapporti tra i paesi? Guardi, avrà le reazioni che più o meno indicava il blogger, cioè nel senso credo che i paesi abbiano fra loro rapporti che notizie di spazzatura di questo genere certamente non inficiano, anche perché gli si aveva fatto il caso del Georgiano, è una tecnica stupenda. Ho incontrato uno per strada, l'ambasciatore Georgiano, e mi ha detto, voglio dire chiunque di noi, ci ho incontrato la cameriera della signora accanto che mi ha detto che fa la zoccola. Io non ho detto che lui fa la zoccola, me l'ha detto la portiera della signora accanto. Cioè, voglio dire, anche una tecnica molto da relazioni, quindi l'ambasciatore Georgiano viene citato da un altro, non è l'ambasciatore Georgiano che dichiara. Quindi voglio dire, non credo che questo... Però vorrei ricordare, siccome qualcuno ha sorriso quando il ministro Frattini ha detto l'11 settembre la diplomazia, e di legarmi al discorso dell'hacker. Certo, da oggi il mondo cambia. Io l'unica cosa che contesto è che questo sia un principio di libertà. Secondo me Julian Assange, come tutti i criminali, è un genio e andrebbe premiato non col premio Pulitzer ma con un premio di genialità, perché questo lo è evidentemente. Però attenzione, non è una battaglia di libertà, questo è un genio che ha giocato una carta, una partita. Avrebbe potuto raccogliere tutti i siti pedofili del mondo e denunciare tutti i pedofili, poteva fare qualunque cosa data la sua capacità. Ha scelto questo, sì. Ci campa, sta vendendo le notizie, non credo che le notizie le dia gratis. No, beh, non benissimo questo. Però ci campa, perché è un po' braccato. Insomma. Beh, voglio dire, un po' braccato questo per sua libera scelta, perché sa che fa un mestiere che non va affidato alla giustizia, perché anche qua, voglio dire, questa mania che tutto deve essere regolato per legge. Lui ha fatto una scelta e la sua scelta e viene... forse la pagherà anche. Io però, sottosegretario... voglio dire, certamente già la paga con una vita... più o meno da braccato. Però mi devo fermare qui, altrimenti sforo. Devo ringraziare tutti, con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci torneremo chissà su questa vicenda, e do la linea a Oscar Giannino. A domani.